Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Di Dario Ricci. Albertosi, Albertosi, Urnici e Pacchetti, con Bertini, Rosato e Cera, c'era un gol. Quale guida più sicura della voce di Mina da seguire per avventurarci tra i miti del calcio italiano e mondiale degli anni 70? E proprio a uno di quei miti è dedicata oggi Olimpia. Mentre sfogliamo il volume, finalista dell'ultimo premio Bancarella Sport, a lui dedicato e realizzato dal collettivo Soriano, insieme di scrittori appassionati di calcio. E allora il libro, edito da Urbone Publishing, si intitola Ricky Albertosi, romanzo popolare di un portiere. E lui, il mito, ovviamente, è Ricky Albertosi. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport, Albertosi. Grazie. Il leggendario scudetto col Cagliari del 1969-70, poi quello della Stella col Milan del 78-79, campione d'Europa nel 68 e vice campione del mondo a Messico 70 con la nazionale. Questi successi più belli di una carriera poi sporcata nel finale dall'oscura pagina del calcio scommesse. Ma lei, Albertosi, vinse non poco anche all'inizio della sua carriera con la maglia della Fiorentina. Beh sì, io alla Fiorentina avevo già vinto, purtroppo non ho vinto mai il campionato, però ho avuto dei discreti piazzamenti, ho vinto una Coppa delle Coppe e ho vinto 2-3 Coppa Italia, se non sbaglio, per cui qualche cosa ho fatto alla Fiorentina. In più ho debuttato proprio in nazionale a Firenze nel 61 contro l'Argentina, avevo 22 anni e per allora per un portiere a 22 anni voleva dire i 18 anni di oggi, perché una volta, prima di diventare titolare in una squadra soprattutto di Serie A, dovevi fare una trafila incredibile. Infatti io davanti un portiere alla Fiorentina come Sarti, grande portiere, che però io giocavo in nazionale e lui giocava nella Fiorentina, e c'era un dualismo tra me e Giuliano, come posso dire, lui aveva un po' di timore nei miei confronti, io ero la sua riserva, però quando tornavo magari dalla nazionale io arrivavo per l'allenamento e lui mi prendeva e mi diceva: ascoltami, tu sarai il portiere della nazionale, ma qui gioco io, nella Fiorentina gioco io. Poi arrivò un sogno che diventò realtà, quel 12 aprile 1970. Ormai il pubblico è pronto per la invasione pacifica del terreno, una circostanza del resto largamente prevista, mentre De Robbio fischia in questo istante la fine. Il Cagliari è campione d'Italia. La voce di Sandro Ciotti, Albertosi a scandire lo straordinario scudetto del Cagliari suo e di Gigi Riva. L'impresa di aver vinto lo scudetto in un'isola è veramente impensabile che si possa ripetere. È per quello che è rimasta nella mente e nel cuore di soprattutto dei sardi, perché ancora oggi, quando io vado a Cagliari magari a trovare i miei ex compagni che sono rimasti lì, ci accolgono, se andiamo in un ristorante ci accolgono a braccia aperte, non ci fanno addirittura pagare, la dimostrazione che noi abbiamo dato tanto alla Sardegna in quel periodo lì, perché la Sardegna era considerata un'isola di banditi, dove c'erano rapimenti, pecorai praticamente. Invece con la vittoria dello scudetto sono cambiate tante cose, ed è per quello che ancora oggi i sardi ci sono riconoscenti. E l'approdo in Sardegna, ricorda se sbaglio, non era stato dei più scontati per lei. Io non sarei mai dovuto andare a Cagliari, sarei dovuto andare all'Inter. Quando la Fiorentina aveva deciso di cedermi, all'Odi mi aveva telefonato, sei già dei nostri. Poi invece quando mi ha chiamato il presidente della Fiorentina per dirmi che mi aveva ceduto, io gli ho detto sì, lo so, no, dice, ma non dove pensa lei, ma a Cagliari. Quando mi avevano detto Cagliari nel 68, cioè subito il primo istinto non vado, poi però non ci si poteva rifiutare allora. Purtroppo non c'erano i procuratori e noi non potevamo rifiutarci. Sono andato e poi ti dirò, non sarei mai voluto più andare via del Cagliari. Invece è stata una cosa che a 35 anni forse avevo da dare ancora, però a Cagliari non poteva più reggere. Magari gli ingaggi che ci davano nel momento che poi abbiamo vinto il campionato, subito dopo i 2 o 3 anni, per cui ha deciso di cedermi e mi ha ceduto poi al Milan, dove tra l'altro a 40 anni ho rivinto il campionato. Però Albertosi, che lei è un'ottima ala sinistra, rende più come portiere o come ala sinistra? No, come portiere, non so chi gliel'ha detto, ma come portiere. Mi risulta che lei gioca alla sinistra anche durante gli allenamenti. Qualche volta, no, ho giocato mercoledì, gioco all'ala sinistra all'estate. No, perché dovrei rimproverarla, perché come ala sinistra avrebbe scelto proprio l'ultima squadra dove doveva andare. Veramente ha ragione. Non è che ha molte probabilità di giocare con il numero 11. Senta Riva, c'è un giocatore non presente, perché pensiamo che sarebbe fuori luogo, ma del passato, anche non italiano, che lei considera un traguardo, che lei considera come l'ideale del giocatore? Beh, avrei voluto dire Albertosi, dopo averlo visto mercoledì, quindi mi ha detto di escludere i presenti. Era superato. Alla Domenica Sportiva Nando Martellini scherza con lei e con Riva. Cos'è per lei Rombo di Tuono? Abbiamo avuto un grandissimo rapporto. Noi dormivamo insieme in stanza, sia quando eravamo in trasferta con il Cagliari, sia con la Nazionale, abbiamo sempre dormito insieme, per cui si era creata veramente un'amicizia vera. E ancora oggi, a distanza di 50 anni, ci sentiamo almeno una volta al mese, ci salutiamo e rinvanghiamo quello che è stato 50 anni fa. L'impresa che abbiamo fatto, cosa che non ci credeva nessuno prima dell'inizio del campionato. La difesa del Milan se l'è passata proprio male e qui è riemerso Ricky Albertosi, altro vecchietto indelebile del Milan capolista. A Firenze Albertosi aveva spudoratamente mentito dichiarando di aver deviato il rigore di Antognoni. Oggi non soltanto ha respinto quello calciato da Altobelli, ma prima e dopo ha confermato di portare benissimo i suoi 40 anni. A Milano, come diceva, poi quasi 10 anni dopo, lo scudetto della stella milanista con un altro mito del calcio, del suo calcio, Gianni Rivera. Somiglianze e differenze con Riva? Ma erano due giocatori grandissimi. Rivera era più centrocampista, era più quello che ti dava la palla per andare in gol. Mentre Riva era il finalizzatore. Riva, se gli davi 3 palloni su 3 palle, un gol te lo faceva sicuro. Io ho giocato insieme a tutte e due, Rivera ha fatto fare un sacco di gol anche a Calloni, a Chiodi, per dire, no? Figuriamoci a Riva. Infatti, come è entrato col Messico, ha messo Riva 2 volte da solo davanti al portiere. E Riva ha fatto 2 gol. Fra poco ci arriviamo al Messico, signor Albertosi. Lei di suo ci metteva comunque le mani e anche qualche tuffo, che un po' di spettacolo non guastava mai, vero? Sì, qualche volta a risultato acquisito, sì. A risultato acquisito mi piaceva dare un po' di spettacolo, no? Però finché non eravamo magari 2-0 o 3-0, finché c'era il risultato in bilico, no, andavo come doveva essere il portiere. Però qualche volta mi piaceva fare un po' di numeri. Tutto l'opposto di un'altra leggenda del nostro football, Dino Zoff, E proprio dall'amicizia e rivalità con Zoff ripartiamo fra poco qui a Olimpia con Ricky Albertosi. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Olimpia. Alberto si era amico di Zoff. Antonioni Rivera incontrò. E tutti insieme poi si misero a giocare con una palla di giornale. Canzoncina o filastrocca, come vogliamo chiamarla, quella che era in voga negli anni 70 per descrivere la magia del calcio di allora, che forse ormai ha solo la forma del pallone, rotondo, in comune col football di oggi. Un viaggio nel tempo e nelle emozioni che stiamo compiendo oggi a Olimpia insieme a Ricky Albertosi, portiere leggendario del Cagliari dello Scudetto, del Milan, del Tricolore della Stella, della Nazionale Azzurra, campione d'Europa nel 68 e vice campione mondiale nel 1970. Una porta, quella azzurra, signor Albertosi, che cominciò presto a diventare troppo stretta per poter ospitare sia lei che l'altro portiere mito del nostro calcio, Dino Zoff. Ci spieghi un po'. Ma guardi, fino al 68 non c'era nessuna rivalità, anche perché lui non giocava in nazionale, per cui poi nel 68 io, prima della partita, l'ultima partita di qualificazione per i campionati europei a Napoli, mi ero rotto un dito. Valcareggi ha tentato fino all'ultimo di recuperarmi, ma non potevo. E c'erano, credo, Anzolin, Vieri, un affare del genere. Uno o un altro si è fatto male, per cui ha dovuto chiamare Zoff, che giocava nel Napoli. Ci siamo qualificati per i campionati europei che si disputavano a Roma dopo un mese praticamente. Io ancora non ero a posto fisicamente, siamo andati in ritiro a Fiuggi e io non pensavo onestamente di giocare perché sapevo che non ero in condizioni. E infatti Valcareggi ha fatto giocare Zoff tutte le partite, abbiamo vinto gli europei, però Valcareggi, siccome io lo conoscevo molto bene perché l'avevo avuto anche allenatore alla Fiorentina, mi aveva preso da parte e mi aveva detto: guarda Ricky, stai tranquillo, ai mondiali giochi tu. E poi che successe? Prima di andare ai mondiali, tra me e Zoff non c'era dualismo, anzi si parlava, si rideva, si scherzava. Poi nel trasferimento in Messico ci siamo fermati a fare una partita amichevole in Portogallo e ho giocato io. Da quel momento lì probabilmente Dino si è accorto che non avrebbe giocato i mondiali, per cui da quel momento lì non c'è stata più la confidenza che c'era prima. Zoff già era taciturno per conto suo e da quel momento lì non è stato più lo Zoff che ho conosciuto prima dei mondiali. Ci vorranno anni poi per fare pace, ma ci confessi, Messico 1970 resta nella sua memoria più per Italia-Germania 4-3 o per il KO in finale contro il Brasile di Pelé? Beh no, l'Italia-Germania è una partita indimenticabile, cioè la mezz'ora dei supplementari sono stati indimenticabili, anche perché dopo che la Germania aveva pareggiato al 91esimo, tempo scaduto, nessuno ci dava più per vincitori. Infatti all'inizio dei supplementari subito abbiamo preso gol. Abbiamo preso gol, siamo andati sotto. Però ecco, in quel momento che siamo andati sotto c'è stata una reazione incredibile. Tant'è vero che addirittura Burnic è riuscito a pareggiare il 2-2. E poi siamo andati in vantaggio perché la squadra aveva avuto una reazione incredibile. Ancora un calcio d'angolo battuto dai tedeschi. Colpo di testa di Zeller. E la palla è in fondo alla porta. Ha pareggiato Zeller 3-3. Al quinto minuto del secondo tempo supplementare. Potrebbe intervenire Albertosi o Rivera e la palla va in fondo sul colpo di testa di Zeller, che però dovrebbe essere stato corretto da Müller. A quel punto lì c'è stato un colpo di testa di Zeller che io ho deviato in calcio d'angolo. C'era questo calcio d'angolo e Rivera è venuto sul palo. E io gli ho detto, no, guarda, ascolta, mettiti lì davanti che qui sul palo viene un difensore. No, no, ci sto io. Guarda che se la palla viene lì, quel metro lì, è tua, io non ci posso arrivare. Sì. Calcio d'angolo, colpo di testa di Zeller, Müller lo corregge, va verso di lui la palla e lui cosa fa? Era appoggiato con la mano nel palo, si gira di fianco e la palla passa tra il suo petto e il palo e va dentro. A quel momento lì io gliene ho dette di tutti i colori. Lui abbracciato al palo, batteva la testa contro il palo, dice ora per rimediare posso solo andare a fare gol. E così è stato, tre passaggi e abbiamo fatto il gol del 4-3 che ci ha fatto andare in finale. La Pacchetti a Buoninsegna, controllato da Schulz, Buoninsegna scappa a Schulz, entra in questo momento in aria, traversone, rete, ha segnato il gol d'Italia! E noi sappiamo dirvi con chi, gentili ascoltatori, ma esattamente con Rivera. Rivera ha segnato ora per l'Italia. Emozioni a non finire. Sesto minuto, l'Italia è passata in vantaggio con Rivera. 4-3 per l'Italia. Poi il 4-1 subito dal Brasile in finale. Rimpianti? Si poteva fare di più? No, secondo me no. Io credo che non ci sarà mai più una squadra, o soprattutto un attacco, come quel Brasile lì, perché un attacco con Jairzinho, Pelé, Rivelinho, Tostão e Gerson, io credo che sia un attacco che veramente nessuna difesa poteva arginare. Noi ci siamo riusciti per 65 minuti quasi. Poi dopo che loro hanno fatto il secondo gol e subito dopo il terzo, la partita era finita, non c'è stata più storia. Si sta giocando con dei tifosi sul terreno di gioco ed ecco il fischio finale che chiude la rimessa. Il Brasile è campione del mondo. È quella per noi la finale della staffetta, o meglio delle polemiche infinite per i soli 6 minuti concessi da Valcareggi a Rivera. Ma diciamo che i titolari erano sia Rivera e Mazzola. Nella squadra titolare prima dei mondiali ci dovevano essere Rivera e Mazzola. Purtroppo quando siamo arrivati in Messico, pochi giorni prima dell'inizio della partita contro la Svezia, Rivera si è sentito male, febbre, dissenteria, per cui non ha potuto giocare. Abbiamo vinto la partita 1-0, dopo tre giorni dovevamo giocare contro l'Uruguay e lui non era ancora in condizioni. Abbiamo fatto 0-0, la terza partita incominciava a stare bene, però Valcareggi non ha cambiato. Abbiamo fatto 0-0, che a noi bastava il pareggio con Israele, abbiamo fatto 0-0 e abbiamo passato il turno. Dopo io non so cos'è successo, ma si sono parlati e hanno deciso che il primo tempo avrebbe giocato Mazzola e il secondo tempo avrebbe giocato Rivera. E così è stato contro il Messico, è stato contro la Germania e non è stato contro il Brasile per un solo motivo, perché alla fine del primo tempo, al rientro degli spogliatoi, c'erano 2 o 3 giocatori che non stavano benissimo. C'era già stata una sostituzione, se ne poteva cambiare solo un altro. A quel punto lì Valcareggi ha detto, se cambio Mazzola con Rivera io mi gioco tutte le sostituzioni. E così siamo andati avanti fino a che non c'è stato il 2-1, il 3-1, dopodiché lì Valcareggi ha fatto scaldare Rivera, l'ha fatto entrare, ma a quel punto lì non era più importante, non era più determinante, ecco. Ha realizzato, siamo al 42esimo del primo tempo, Italia 0, Corea Nord 1, al 42esimo Pak Do-hik. Altra pagina storica e nera del nostro calcio, 4 anni prima, è sempre lei, Albertosi, è in porta a Middlesbrough, nell'Hainaut leggendario KO per 1-0 contro la Corea del Nord, che ci costò il mondiale. C'era Fabbri, allenatore, ha fatto giocare dall'inizio Bulgarelli, che non stava bene. Infatti dopo un quarto d'ora, 20 minuti quanto, Bulgarelli si è fatto male, si è strappato ed è uscito. E abbiamo giocato in 10 contro 11. Nonostante tutto, i primi 10 minuti della partita c'è stato Peranis, si è trovato 3-4 volte da solo davanti al portiere e non è riuscito a fare gol, un po' perché il portiere è stato bravo, un po' perché magari ha buttato la palla fuori. Loro hanno fatto un tiro in porta, uno ha messo la palla nell'angolino, io non ci sono arrivato e abbiamo perso purtroppo la partita, che è stata una partita disonorevole, diciamo, per il calcio italiano, perché perdere contro la Corea del Nord era venuto fuori l'ira di Dio, no, per la nostra sconfitta. Vola il tempo, allora come oggi. Ricky Albertosi, un altro Albertosi, c'è in giro? Io credo che Donnarumma possa giocare per tanti anni, sia nel Milan che in nazionale, perché ormai ha acquisito l'esperienza che gli mancava quando ha debuttato a 18 anni, per cui è un portiere secondo me di sicuro affidamento. Anche se il portiere che più mi avvicina è Perin, io quando vedo Perin mi vedo me da giovane, ecco, per la sfrontatezza che gioca, per le uscite che fa sui piedi. Enrico Albertosi, e allora ci si vede al prossimo tuffo? E grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, arrivederci. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.